in onda Forze Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica Simone. Uni. Venerdì 13 maggio 2016. Incredibilmente, immarcescibilmente, Enzo, siamo ancora qui. L'inizio della fine. Del fine settimana. Bravo, su Radio F, ovviamente, 89.2. 89.2, eh? Perché ci sono delle sporche imitazioni in giro. No, so che ti sei tatuato le frequenze sull'avambraccio sinistro, perché quando mi asciugo la fronte leggo le frequenze. Sta per iniziare un'altra puntata di Piazza Alta, siamo tantissimi in studio. Tantissimi, ma stasera il livello qualitativo della trasmissione è elevatissimo. Sarebbe altissimo. Andiamo con il primo brano, Simone, poi spieghiamo perché. Voi spiegherete perché. Don't un piccolo accenno di un brano dei Rumba de Bodas Nowadays. Pensa, caro Marci, te non lo sai, io invece sì. Ma forse loro sono, anche se sono bolognesi e questo è il loro nuovo disco, Carnaval Fu. No. Fu? Simone, fu? Fu. Fu. Fu. Passato il 5 maggio, fu. Come al solito. E quindi, come al solito, niente da fare. Allora, dicevamo, questa è Radio F, questa è Piazza Alta, inizia il weekend di Radio F. Come potrebbe iniziare meglio? In mille altri modi. Però ma ci siamo noi. Vi è toccato questo. Però. E come vi possiamo raggiungere? A parte le frequenze di ormai storiche. 89.2, sì. In streaming su www.radiof.it. Oppure? Scaricando tutte le nostre app per... Dove dovete citate? Radio F? I vostri smartphone, yeah. I vostri eccetera. Ma c'è di più. Ma c'è di più. Ma dillo con più il nostro vero. Profilo Facebook è bollente in questo, momento, questa serata. Radio F. Potete contattarci anche tramite il numero di telefono 0575 648276. Ce l'ho talmente qui in testa che... Oppure posso dirlo una io? Prova, vai. Grazie, se avete WhatsApp e chi non ha WhatsApp, oppure SMS 392-4900-800 e potete fare commenti anche su una direzione della conduzione splendida della trasmissione come la mia, oppure del contraltare che hai noi. Ma soprattutto puoi fare anche domande Perché? Per i nostri ospiti. Allora, lo iniziamo a dire subito? Sì, io direi di sì perché ci vorrà molto tempo. Allora, stasera parliamo di arte. Arte. Ma ci sono tante sfaccettature. E quale posto più sbagliato? Se non questa trasmissione. Ma non solo, di teatro. Però noi siamo temerari. E loro ci temono più che altro. Parliamo di teatro, lo facciamo con una compagnia teatrale quasi ad alti livelli. Altissimi livelli. Siamo al terzo piano. Ed con la Brigata Decento. Che ci vorrà solo tre trasmissioni per presentarvi. Per spiegare il nome e quindi non lo spieghiamo. Va bene, ma come vuoi te. E tra l'altro hanno appena concluso la stagione teatrale con il loro Io e l'erede. Io l'erede. Ma di questo ne parliamo con calma, però presentiamoli, esatto. È il momento di presentarli. E chi ci guarderà sul nostro canale YouTube esatto. Vedrà che alla mia sinistra ho il piacere, l'immenso, ringrazio veramente. Ma che quando ci sono donne? Francesca, io la chiamo solo con il nome di battesimo, ah, ma perché, permetti, ma gli artisti, perché siamo, solo il cognome siamo tutti artisti. Vabbè, ma io pensavo facesse piacere. Francesca Insero. Bene. Bene, ciao sì. Francesca. Ciao. Poi abbiamo a seguire Annalisa Bardelli. Ciao. Vedi, si è messa a ridere solo per... Così. Paolo Parigi. Buonasera. Ciao Paolo. Fabio Torsini. Ciao a tutti. Alessandro Ghezzi. Ciao a tutti. Enzo Ferraro. Ciao a tutti. Marcello Bernardini. Ad libitum. No, dicevo, molto asciutta come presentazione, giustamente. Non abbiamo detto se sono attori, registi, ma lo diciamo fra sorpresa, un po' di perché andremo a parlare, sì è vero, dell'ultimo spettacolo che avete fatto, ma soprattutto di tante altre cose. Perché? Perché siete venuti qui? Qual è il problema? Qualche problema avete? No, a parte scherzi, perché uno fa teatro? Che cosa vuol dire fare teatro? E che cosa succede quando fai teatro? Quando fai teatro, sia dietro le quinte, ma anche tra il pubblico. E perché si chiamano quinte? Ma questo... Quinte, perché evidentemente questo non si sono allenati a sufficienza. Io vedo Simone... Basta, Simone, mettene tre di brani. Un brano? Un brano. Sì, dai. Buon ascolto. Da le F frequenze. Da pipipipi. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask. Oh, malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Senti il groove, is in the heart. C'era anche un po' di riff. Questi ragazzi ci hanno fatto ballare a tutti. Delight, te Marci, ti ricordi negli anni 90? Ricordo. Quando andavamo in quella discoteca che non c'è più e ballavamo tutti insieme su con le mani. Vabbè, ma questo... Sono sordo io. E adesso torniamo. Statisticamente non è possibile che su due gruppi non me ne più. Stranamente non funzionano tutte. È proprio un problema di udito. Non è udito. Allora, oh, finalmente. Finalmente diventiamo seri, arrivederci. Allora, questa è Piazza Alta, ricordiamo sempre, potete visitare la nostra pagina Facebook di Radio F, potete mandarci un messaggio al 392-4900-800, ma dirci... A che ore c'è il passo? Perché a noi se ci vogliono visitare è in orario ma... di passo. La brigata... Dei 100, del teatro, del 100, del cominciamo cento. A mettere... Smettiamo subito! Smettiamo subito! È una settimana che ti preparo, sull'unica cosa importante che è il nome... Parliamo di teatro, falli, con di la compagnia, la brigata del 100, che viene dalla provincia di Arezzo. Dalla Toscana. Infatti, io ho detto l'artista che non ti aspetti. Dov'è? Infatti, è una sorpresa, ma perché? Diciamo perché siamo qui. Perché mi pregio di avere un'amicizia, una conoscenza non troppo profonda, però con Alessandro che è qui con noi, che è uno degli attori. Un po' sommessamente ha cominciato a fare questa attività di attore. Sommessamente perché non ha rotto tanto le scale all'inizio, perché anche lui forse. E devo dire che stasera è qui con noi insieme a tutta la compagnia e a seguito di una mia partecipazione alla loro ultima, una delle ultime rappresentazioni, sono rimasto, sto veramente stupito. Come veramente il teatro possa essere appannaggio di tutti. Naturalmente sto scherzando. Quarto d'ora di prefazione per dire una battuta venderebbe parenti per fare una battuta. È lui. Partiamo, io se mi permettete partirei dal regista. La volevo dire perché sono sì. Avanti, ho dei blocchi mentali che... Il regista Fabio Torsini che è l'ideatore di tutto quanto oppure no? Facciamo così, iniziamo dalla domanda più facile. Sì, sì. Caro regista, buonasera. Ciao. Buonasera. Perché si inizia a fare teatro? Innanzitutto deve partire da una passione, perché sennò insomma, poi devi trovare personalmente devi trovare poi le persone con le quali poter intraprendere un certo tipo di percorso. È stato questo per me fondamentalmente, la passione c'è da tutta la vita, questo era il momento, insomma. Ecco, gli amici che ci ascoltano per radio non ti vedono, insomma, sei giovane, insomma, quanti anni hai? 29. Ecco, 29 anni, quindi fare il regista nel qualcuno dice 30. Non vorrei. È nel millesimo. Ancora no. Comunque nell'immaginario collettivo si pensa a registi di una certa età, con esperienza, eccetera, invece te 29 anni fino al quel giorno lì, esatto. 29, e cioè, quindi è la tua prima esperienza come regista o sì, hai già fatto? Sì, è la prima esperienza da autodidatta, o insomma, c'è dietro uno studio di qualche anno, però ecco, a livello di esperienze sul campo è la prima. Ecco, come vi siete trovati? Cioè, non è che te la mattina ti sei alzato e hai detto io faccio il regista e hai chiamato 5 persone e hai detto facciamo teatro? È andata all'incirca. Abbastanza in quel modo. No, no, parte da un percorso comunque sia di altro genere, di animazione con qualcuno, per esempio con Paolo si è fatto un sacco di anni di animazione con ragazzi, giovani, eccetera, e quindi un po' l'indole è nata lì. L'idea poi è venuta, diciamo, con Alessandro, se ne parlò, io avevo questa passione, questo desiderio e il suo entusiasmo, diciamo, mi ha dato il là per partire. Ho la fortuna di conoscere loro che pensavo fossero le persone giuste e si sono dimostrati tali e siamo partiti in quarto. Volevo fare una domanda anche appunto alle ragazze che sono giovanissime. Lascia stare. Intanto già mi sono rinchiamato due ragazze. E fare teatro prevede il fatto di non essere timidi o comunque insomma di non vergognarsi troppo? In realtà no. Ecco. Nel senso che io, cioè quando Fabio me l'ha detto, comunque gli ho detto no, ma io non, cioè, non ce la potrò mai fare assolutamente, ti do una mano in regia, cioè proprio. Però invece è stato proprio un aiuto per la timidezza, perché comunque l'ostacolo sta nel dire ok, sto facendo una cosa davanti a persone, ma non mi devo sentire stupida perché sto facendo delle cose strane. E ti aiuta tantissimo se sei una persona timida, se sei introversa, ecco, come sono io abbastanza. Veramente. Quindi Enzo, diciamo, rivaluta anche la tua posizione, perché tante cose che fai davanti alle persone non sono poi così stupide. Fare passare sotto teatro. No, se mi permette, Enzo, volevo fare una domanda proprio a Fabio, perché ha parlato un po' di percorso, ha avuto un po' una passione che poi ha coltivato, ha studiato, eccetera. Però com'è che diciamo, una persona sceglie di stare magari dietro le quinte anziché sul palcoscenico? Ecco, lì c'è un discorso comunque di invidia, diciamo. Io ovviamente invidio il palco e mi piacerebbe, però io per esempio non credo al discorso allenatore-giocatore. Ecco. Okay. Non credo sia un ruolo funzionale. Quindi quello che io riesco a gestire in regia è il tutto. Stare sul palco mi toglierebbe un sacco di attenzioni, un sacco di il quadro generale, la visione generale, quello che rende al pubblico quello che vedo. E quindi si perderebbe troppo di quello che quindi è il mio dici, ruolo. Quindi o stai in regia o stai in regia o stai sul palco. Però perché tu hai scelto di non stare sul palco e basta? Perché io ho sempre avuto questo sogno di cominciare una compagnia teatrale, perché io amo il teatro, amo fare teatro, e ho anche altri progetti, insomma, di diverso tipo, nei quali faccio il protagonista, eccetera. Ma qui volevo proprio qualcosa di mio, in cui ci si potesse esprimere in toto, insomma. Ecco, io vorrei fare allora una domanda, per esempio, a Paolo, che ancora non ha parlato, e dire... E com'è questo regista? No, allora, il regista è preparato, nonostante faccia un lavoro... No, nonostante faccia una preparazione da autodidatta, certo. Quindi non è facile, insomma, l'impegno ci vuole, e infatti io ci tengo a dire che noi come compagnia teatrale, comunque sia, non è che prepariamo lo spettacolo tutto l'anno, scegliamo un copione e lo portiamo avanti tutto l'anno. Prima di iniziare un copione, noi facciamo degli esercizi di recitazione che lui si studia a casa, lui si prende i suoi libri, se li studia, li sceglie e quando poi si fanno ce li spiega. Quindi non è una cosa da poco, sia trovarli e studiarli, ma anche, come dire, una compagnia teatrale magari chi lo fa per passione lo fa anche così, per gioco, e non ci si mette di questo impegno. Quindi noi come compagnia ci teniamo molto a questo particolare. E questo non è da poco, ma non io nella mia piccola esperienza teatrale, cioè, mi rendo conto che realmente lo spettacolo è proprio solo la punta dell'iceberg, di un lavoro immenso, che andremo a sviscerare meglio con ognuno di voi. Io purtroppo ho un ruolo anche infimo, quello di ogni tanto di fermarvi, perché noi dobbiamo ascoltare anche un brano che ha scelto Simone. Il commento a questi brani può essere solo uno. When you sleep on my side. Amico di Piazzalta, caro il mio Marci, anche se te forse lo ignori, in arte Persian Pelican con Daydream, ma in realtà lui è Andrea Pulcini, che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere e di ascoltare nella scorsa stagione. Ricordo, live. Lo ricordo, ma noi continuiamo invece in questa... Prego. Mi sono informato. C'è un treno. Mi sono informato. Mi a te non dirà niente questa battuta, ma i nostri amici diranno. Vedi? Perché? Allora, spieghiamolo anche magari a qualcuno che si è collegato solo adesso. Piazzalta, Radio F, stiamo parlando con una compagnia... Sì, una compagnia teatrale eccelsa, volevo dire. La brigata... Eccelsa. È qui. Eh vabbè, allora fai te. Continua, dai, continua. No, appunto. Ho la brigata dei 100. Sì. Del 100. Ah, ma allora ragazzi, ora basta. Ora basta. Cambieremo nome. Cambiamo. Ma perché noi? Abbiamo brigata del 100. In tempi non sospetti ad Alessandro gli ho detto proprio che il nome, ma lo li distingue. No, ho fatto questa battuta aperte virgolette. Mi sono informato proprio perché è una delle battute che delle cose che caratterizza il nostro amico qui Alessandro nel suo personaggio che ha portato in scena con tutta la compagnia fino a pochi giorni fa. Alessandro, ci vuoi dire qualche cosa di questa di quest'opera ultima e che vi ha visto protagonisti? Beh, per chi non si è informato, diciamo che... Arrivederci. Io ci ho avuto tanto da fare questa settimana, guarda, io il bucato. Diciamo che è uno spettacolo di Edoardo, è un testo di Edoardo De Filippo, diciamo, rappresenta l'ultimo testo della cantata dei giorni pari, e narra di una famiglia altoborghese napoletana degli anni 40, che a un certo punto che diciamo si prodiga nel fare beneficenza, però una beneficenza diciamo di facciata. Uno dei beneficati di questa famiglia, che è Prospero Ribera, a un certo punto muore. Quest'uomo è ospitato in questa casa da 37 anni, muore, e a un certo punto arriva il figlio, e il figlio pretende l'eredità del padre. È un'eredità particolare, perché il padre in realtà è un nullatenente, quindi è un'eredità di sentimenti. E nello spettacolo praticamente l'erede, Ludovico Ribera, quello che interpreto io, è il mezzo che Edoardo utilizza per distruggere un po' il modello borghese napoletano anni 40, che è criticatissimo da Edoardo. Beh. Ecco, volevo fare ora mi devo rifare. Prego, prego. Visto che è una commedia un po' particolare, se vogliamo, per una compagnia toscana, perché come sappiamo, e qui dimostro di aver studiato, Edoardo l'ha scritta nel 1942 e l'esordio è stato al Teatro Verdi di Firenze, esatto. Senza leggere da nessuna parte. Scusate, no, questo ci siamo informati. Ecco, come e la prima volta è stata anche messa in scena in dialetto napoletano. Voi invece, siccome io non sono potuto venire quella sera, scusate, la fate in italiano, sì, in toscano, in italiano. Ecco, ma quando l'avete scelta, anzi meglio, quando l'hai scelta, presumo, mi riferisco al regista, ti sei posto questo problema oppure l'avevi già rivista fatta in italiano, non c'era nessun problema? No, no, in generale mi pongo sempre il problema di la lingua di origine, il dialetto, eccetera. Credo però che una trasposizione in italiano sia comunque accettabile e rispettosa. Tentare di scimmiottare il napoletano perché non ci sarebbe venuto a dovere, certo, e non renderebbe onore a quello che è un testo, un'impostazione naturale di una persona nativa, certo, di quelle zone. Quindi ecco, credo anzi la trasposizione in italiano possa servire a estendere, sì, questo testo non ne ha nessun bisogno, ma in generale possa servire anzi a estendere le persone che conoscono un testo, che magari non lo possono apprezzare perché non conoscono un dialetto stretto, eccetera, insomma. Io volevo fare... Dimmi. No, come volete. No, volevo dire, tra l'altro, ecco, mettere in scena un'opera di Edoardo De Filippo, ci vuole coraggio, nel senso che è uno dei più grandi contemporanei, se non il più grande, insomma, del secolo scorso. Lo chiedo più che altro a voi che avete recitato, perché capisco l'incoscienza di chi l'ha scelta, ma ecco, vi siete, ora non dico paura, perché però insomma qualche timore nel recitare una cosa del genere? Francesco. Sì, allora la scelta è stata abbastanza, diciamo, unanime, e abbiamo avuto coraggio, diciamo, a buttarci in un testo del genere. Senza alcun timore, perché alla fine siamo una compagnia, un gruppo unito, e abbiamo saputo affrontare un testo del genere, ci abbiamo lavorato molto e i risultati ci sono stati, quindi siamo contenti di questo, insomma. Vorrei dire tante cose, però volevo avvalorare quello che ha detto Francesca, perché io ero presente in una, certo, di queste rappresentazioni, e secondo me ci sono dei piccoli segnali che danno proprio la sensazione come anche, diciamo, persone che ci vivono accanto tutti i giorni, insomma, facendo teatro assumono anche una fisionomia, diciamo un ruolo nella società di tutti i giorni. Mi sono trovato appunto a essere tra il pubblico. aspetta, non capisco parlare. Sì, no, sto spiegando. Fatelo sono dire, trovato normalmente e capirai. Mi sono trovato a come il teatro un po' possa sublimare la persona. Io sono trovato nel pubblico e ho sentito tanti commenti prima che iniziasse una di queste rappresentazioni, di queste serate. A un certo punto, caro Enzo, ho sentito una donna che era tra il pubblico, spiegare chi erano questi ragazzi che stavano mettendo, ecco, questi attori che stavano mettendo in scena quest'opera. A un certo punto, con orgoglio, una donna è uscita dicendo: ma chi è Alessandro? Sì, è il nostro Cristo. spieghiamo perché, esatto. Alessandro durante il periodo di Pasqua in persona, in una processione, anche Gesù, esatto. Però voglio dire, io sono rimasto veramente turbato, tra le altre cose, come questo detto con orgoglio da una persona del paese, da una concittadina, un'appartenenza, tra veramente l'altro. No, io dovete sapere che te hai iniziato da Cristo, esatto. senza voler essere, cioè, proprio dal punto di vista recitativo, sì, sì, sono partito da lì, ma sei partito dal basso, sì. Già me la temi questo volettino minore. No, Rigutino è suddiviso in quadranti, io abito a Rigutino, no, e sono molto nel centro, sono molto conosciuto nel quadrante di Rigutino Sud, probabilmente. Tutto Rigutino era no, la signora era del quadrante, gli altri quadranti non mi conoscevano. È di Rigutino Ovest. E allora, cioè, sei proprio famoso. Si è allargato. E però ho sentito parlare bene anche degli altri. Ma ne parlavano bene anche a te di Rigutino Est. 4 televisioni, ovviamente. È risaputo. Simone, qua, un altro brano, bisogna andare per forza. Grazie per ora, rimanete qua. Lo dico agli ospiti, voi a casa lo so che rimanete, ma sono loro che sono tentati da andare. You know that I'm loving you in a color of Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a color of Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a color of Vita, baby, don't you know that I'm always the truth? Iron Butterfly in Agada da Vida, era il 1968. Pensa, caro il mio Marco, ha una storia al titolo di questa canzone, perché pare che il cantante degli Iron Butterfly volesse intitolarla In the Garden of Eden, ma forse un po' troppo sbronzo e provato dalla serata riuscì a bofonchiare solo In Agada da Vida, e quindi la cosa piacque agli altri componenti e così vedi alle volte i grandi successi. Pensa, se io facessi così siamo votati al successo, se io facessi così con te avrei mille titoli da raccontare, per dire sborni. Piazza Alta venerdì sera, dal venerdì alla domenica, il weekend Radio RF. Esatto, bravo, queste sono le cose da sapere per il fine one two. La pagina Facebook di Radio RF che dovete visitare, Dall'altro ci saranno anche dei video, ci hanno già anche ripreso anche stasera, sia Paolo, ringraziamo anche Valeria, la nostra videomaker, il suo ragazzo, ammazza, c'ha un telefonino in mano, e si riprende. Stavamo parlando, abbiamo con la, con la brigata del centro. Grandissimo! Ho messo solo 37 minuti a ringraziare i radioascoltatori, non è una cosa da poco. Parla te ora, chi è in studio ha sofferto con Enzo questa cosa. Sono provato. Dico allora, abbiamo fatto un accenno del vostro ultimo, della del vostro ultimo. Vabbè, parlo io. Prego. No, prego, prego. Allora, abbiamo parlato della vostra ultima rappresentazione, che si intitola, si chiama Io le Regno, ma ne avete fatte altre negli anni precedenti. Dite voi, parlate, chi volete? Io esattamente quella dell'anno scorso. Fabio, sì. Insomma, la compagnia è nata nel 2013, quindi questo è il terzo anno, di conseguenza noi è il terzo testo che si mette in scena. Il primo anno era una commedia brillante, quindi votata alla... Al sorriso strappato con la battuta. E non è questo il programma. E non è questo il programma, evidentemente. Sembra la scena giusta. Che si chiama Il Clan delle Vedove, che è una commedia francese. L'anno scorso invece mettemmo su Attori e Malfattori, che è una commedia, diciamo, nella quale si ride ancora molto, però cominciano a esserci delle dinamiche più... più movimento e meno battute serrate. Ecco, questo è un po' stato la nostra crescita. Quest'anno si è provato un po' il salto di qualità. Ma non so se magari per dimostrare che questa, che siete veri, che il programma di Piazza Alta non è fasullo, se avete qualche cosa da farci anche sentire, darci un'indicazione dei personaggi, per farci un po' incuriosire, un estratto live per quello che è stato, ma soprattutto per quello che sarà. Bravo. No, allora, l'anno scorso c'erano dei personaggi molto particolari. Attore e Malfattori trattava di alcuni detenuti dentro un carcere che, per avere uno sconto della pena, mettevano su uno spettacolo teatrale con una regista che veniva da fuori, la direttrice e anche ogni tanto la comparsa di qualche delle suore un po' particolari. E ogni detenuto aveva la sua particolarità. Per esempio c'era Alessandro che era, si chiamava Corrado. Corrado Reale. Un figlio di papà, ecco, finito in galera per aver per un incidente stradale, aver ridotto in sedia a rotelle una persona. E un altro invece era un delinquente patentato, che un ladruncolo da quattro soldi. E poi c'era, ahimè, un personaggio che doveva essere praticamente uno straniero che non si doveva capire bene da dove doveva arrivare. Infatti aveva un nome lunghissimo, Baris Stajan, poi noi l'abbiamo anche cambiato. E quindi, però per gli amici. Per gli amici, Italo. Perché? Per gli amici, Italo. E aveva una voce un po' particolare. E diciamo, le performance di questo spettacolo erano... Il meglio erano delle telefonate che noi facevamo da soli con un telefono, una cabina telefonica finta, in cui Italo, per esempio, parlava così col suo avvocato. Avvocato, ricapitoliamo. Allora, io persona delle pulizie con forte disagio, grande allergia a detersivi affini. Mio amico dice me, Italo, te compra detersivo analergico, io regalo detersivo analergico, se tu fai un piccolo favore a me. E praticamente continuava la telefonata e questo amico faceva credere a Italo di vendergli un detersivo allergico, invece era cocaina. Italo lo trasportava, veniva fermato dai carabinieri e lì lui tentava di dire che era un detersivo allergico e in effetti era cocaina. E quindi era un po', erano delle macchiette, però diciamo meraviglioso. Era un po'... Sì. Bello, bello. Vedi, Marcello, quante cose avresti potuto vedere, voglio dire, ma avrai tempo. Certo. Perché i nostri amici probabilmente rifaranno repliche per Marcello apposta. Ma, sì. A proposito, un'altra domanda. Voi, la vostra origine è Ponticino, quindi in provincia d'Arezzo. Faccio una domanda da ignorante puro. C'è un teatro a Ponticino oppure un... No, abbiamo una sala prove. Ponticino semplicemente perché... ho questa disponibilità di questa sala quindi facciamo sala prove qui, non c'è un teatro vero e proprio. Per esperienza, per quella poca esperienza che ho, che è molto anche difficile riuscire a rappresentare i propri lavori in giro, perché purtroppo l'arte risente di un periodo non florido a livello nazionale in tutti i settori, l'arte ancora di più. Posso immaginare la difficoltà nel poter proporre più volte il vostro spettacolo. Voi quest'ultimo spettacolo quante volte l'avete rappresentato? 4 volte, 4 date, in 4 settimane diverse. E questo è il primo anno, diciamo, che ci spingiamo un po' più lontano dalle nostre zone, quindi abbiamo fatto prevalentemente Arezzo in questi anni, oppure il Valdarno, perché queste certo. sono le zone conosciute. Certo. Quest'anno siamo andati per la prima volta un po' più in là, al Teatro di Bibbiena, al Dovizi, e però la sorpresa è stata enorme quando questo spettacolo ci ha valso il premio della critica, insomma, quindi è stato veramente una soddisfazione enorme. Parliamone meglio. No, facci capire, insomma, sono soddisfazioni vere. Sì, sono soddisfazioni vere. E il premio è intitolato a Grazia Bei, che è la diciamo promotrice della filodrammatica di Bibbiena. Ok. E era una rassegna, quindi a votazione con una giuria al Teatro Dovizi di Bibbiena, e quindi è stato bello poi apprendere che avevamo vinto questo premio della critica, insomma, il riconoscimento allo spirito del gruppo e al coraggio di mettere in scena Edoardo, una compagnia così giovane. Quindi, insomma, è stato veramente bello. Beh, complimenti davvero. Grazie. Alla luce del fatto... È una scoperta continua. Ecco, siccome siete bravi, allora, perché avete vinto anche un premio importante e soprattutto un riconoscimento da parte di chi era a vedere, quindi, insomma, voglio dire, è vero, vi volevo fare un'altra domanda. Recitando tutti insieme, 4, 5, 6 personaggi, può capitare è mai capitato a qualcuno di voi in questi anni di dimenticare una battuta sul palcoscenico? E se sì, che succede? È successo anche quest'anno. È uscito il regista, ma ha picchiato tutti. È successo, no. Praticamente dietro le quinte ci sta sempre una persona che ci accoppia la mano, il cosiddetto gobbo. Esatto. E quindi è lui che poi, se succede qualcosa, se uno si dimentica qualche battuta, provvede, insomma, a suggerirci. Poi c'è anche da dire che la cosa più importante è lo spirito proprio del gruppo, cioè ci deve essere la cosiddetta chimica tra di noi, e questa si costruisce con il tempo, con tanto lavoro, però quando la raggiungi, diciamo, la consapevolezza, insomma, di essere parte di un gruppo e l'affiatamento, proprio lo spirito di squadra, non ti fa più paura niente sul palco, certo. Nemmeno di scordarti la battuta, perché tanto sai che c'è sempre qualcuno dietro o qualcuno nel palco che capisce la tua difficoltà e che interviene. Mm-hmm. Esatto. Voi quanti siete a recitare in totale? Noi siamo 9. 9 attori. 9 attori sono tanti, eh. Sì. Ecco, quando decidi le parti, mi riferisco sempre al nostro regista, scusate Marcello, ogni tanto mi tocca, è chimica. È chimica. Ecco, no, hai ragione, però aveva ragione lui a toccarmi, perché siamo a 8 minuti, io mi faccio direi, prendere. Ecco, che può essere, tieniti in serbo la domanda, esatto. Perché... Pensaci, intanto mandiamo un altro brano, che questo mi piace, è l'unico che conosco, per dire. Grooving on down in a trench coat with the Saturn on trail. Seems to be all around in tin and lead pale we pale. Driving on down to the beach to see the blue and the grey. Everything's all on its rosy, it's a beautiful day. Will you please keep on the track? boat with the Saturn on trail. Seems to be all around in tin and lead pail we pale. Driving on down to the beach to see the blue and the grey. Everything's all on its rosy, it's a beautiful day. Questo era Syd Barrett, caro, cari miei amici che state ascoltando da casa con Gigolo Hunt. È l'ultimo album in studio di Syd Barrett. Ma veramente. Se qualche dolce. Lascia perdere. Lascia vabbè, perdere. Se non si può dire. Sempre piazzata, sempre la GF. Sarà a San Dio. E sempre con la brigata del 100. Grazie, ragazzi. Spaccherete. Ci eravamo lasciati con una domanda lasciata in sospeso, a metà. Sono stato male tutta la canzone. Mi ha sfiorato una mano, ho provato un brivido. A Fabio Torsini, il regista della compagnia teatrale, a cui chiedevo, siete ai nuovi attori tra le mani e devi decidere a chi dare una parte. Come Creta, da modella. Sì, è una bella responsabilità, è mediata da un fatto, diciamo, preliminare. Non essendo un lavoro per noi, è chiaro che all'inizio c'è una disponibilità chiesta a ognuno per l'anno, che in base certo, ovviamente allo studio, al livello lavorativo, eccetera. E poi in base a quello cerco di, o da un lato metterli in crisi, nel senso cercare un motivo di crescita nel personaggio che devono fare abbastanza distante da loro, o comunque un personaggio che vedo possa essere fatto veramente bene da quella persona con la sua sensibilità, eccetera. Okay. È insidioso Fabio. Però voglio chiedere soprattutto a Francesca e Annalisa, ma poi anche a Paolo e Alessandro. Quando vi propone una parte, noi magari ad un'altra ne propone un'altra, che però vi sarebbe piaciuta, insomma, un pochino, eh? Ma finora, cioè perlomeno personalmente, non è mai successo, però certo, purtroppo c'è il concetto... Cioè è normale che uno abbia una parte un attimino più impegnativa e un altro ne abbia una, perché non ci possono essere nove personaggi con la stessa importanza. Però diciamo la sfida sta anche nell'accettare di stare meno sul palco, diciamo, però avere un, perché cioè, si può essere importanti per quello spettacolo anche se non si è sempre in scena. E questa è la versione ufficiale di Annalisa. Ora Francesca dici la verità. Dai. Qui non voglio dire niente, l'anno scorso. Ho strappato i capelli. Ho iniziato l'anno scorso io, okay, il secondo anno, e il mio esordio è stato fare la suora. Quindi... Suore, Cristi, vedi, è tutto uno. Però, però a parte tutto, era una parte minore, quindi contentissima per essere la prima volta. E poi, come ha detto Annalisa, uno insomma deve, tra virgolette, accettare e riuscire a fare al meglio la parte certo, che viene data dal regista. Vedi, lo faccio io tutti i venerdì, di accettare una parte minore. Ma anche perché non sei in grado. Mentre Paolo, che ma... ne pensi? Te hai fatto sempre quello che ti, piace, ti sarebbe piaciuto fare, oppure qualche volta hai detto ma... Ma sì. Sinceramente sì, poi l'anno scorso è successo anche un fatto un po' particolare, perché prima non l'ho detto, ma tra i detenuti c'era anche un personaggio che faceva il muto, era muto. E si chiamava Volume. Massimo Volume. Massimo Volume. E c'è stato a un certo punto da dover cambiare personaggio, perché la persona che non è qui, Nicola, era il primo anno e quindi gli era stata affidata una parte che non si sentiva al momento magari di ricoprire, o ma può succedere a tutti certo, per disponibilità per mille motivi, e ci siamo anche scambiati la parte. Quindi cioè, sei diventato muto. No, ero muto okay, e sono diventato parlante. I miracoli del teatro. E ci sai che il nostro Cristo se non li fa lui. Però alla fine ho sbagliato, noi, per il peccato. Forse il quaresima. No, questa cosa noi sinceramente ce la giostriamo, cioè la viviamo molto bene, ecco. Poi quando diamo la disponibilità, avendo letto il copione, più o meno ci si indovina, ecco, dove si va, che personaggio si va a interpretare. Alessandro, ora di qualcosa anche te. Sì, d'accordo. Sono d'accordo con Paolo, insomma. Anch'io fino adesso, nei ruoli che ho avuto, insomma, sono sempre stato contento del ruolo che mi è stato assegnato. Poi, era il protagonista. Soprattutto a Ricutino. No, però ci saranno poi dei momenti in cui magari il personaggio mi piacerà meno, ma sarà un motivo in più per lavorarci meglio e per migliorare. Lavoro più introspettivo. Esatto. Sì. Beh, una crescita. Con i grandi silenzi. Ecco, io volevo sapere quanto tempo vi impegna preparare, cercare di... Abbiamo sentito Fabio che nella scelta dell'opera magari da proporvi e da mettere in scena certo, fa un lavoro, ma per voi attori o sedicenti tali quanto vi impegna, diciamo, quest'anno durante la settimana? Vi ha portato via molto tempo? Avete studiato anche da soli? Avete fatto delle sessioni particolari? Sì. Quest'anno tutti i personaggi diciamo di questo spettacolo richiedevano comunque il lavoro, forse extra prove. Noi facciamo le prove una volta a settimana, 3 ore. Però la parte assegnata ad ognuno di noi, chi più chi meno, ma comunque tutti sostanzialmente, richiedeva un tempo maggiore di quelle 3 ore. Quindi ci siamo trovati, personalmente io mi sono trovato a ripassare o a studiare la mia parte anche la mattina in macchina quando andavo al lavoro. Bravo. Quando tornavo. Perché questo, sì, no, posso testimoniare, nella mia unica esperienza mi sono ritrovato in macchina a fare dei versi, poi al semaforo ti guarda e dice pare, ma questo no, c'è, ma pare c'è che da Rigutino ad Arezzo ci fossero la mattina una ola di persone che aspettava che passasse esatto. Alessandro per sapere il seguito. Esatto. Sì, sì. E poi appunto e poi la prova settimanale era quella dove facevate tornare esatto. Tutto quanto, inoltre poi con Paolo con il quale ci abbiamo insomma delle parti abbastanza estese in cui ci confrontiamo, diciamo, certo. Durante lo spettacolo abbiamo provato anche insieme, oltre alle normali prove, una volta a settimana in aggiunta. Come l'anno scorso. Chi faceva le tre suore si trovavano anche certo. Per provare certe cose. Sì, sì. Provare pare che si trovassero ai Vespri. Poi dice, gli do poco spazio, ma da sé. Sono piccole. Fabio, io ti volevo fare ancora un'altra domanda. Sì. Sicuramente starai già pensando al prossimo spettacolo, se non hai già deciso, ma non ce lo dire, oppure se ce lo vuoi dire, diccelo, magari, insomma, fai te. Ma quello che ti volevo chiedere io, lasciamocela come ultima notizia. Quando metti in scena i tuoi attori, cosa cerchi di trasmettere? Cioè, nel senso, uno c'ha un testo, lo vede, prova, e hai già in mente te quando lo scegli cosa deve fare precisamente un attore? Cerchi di trasmetterglielo oppure lo lasci andare, preferisci che faccia quello che più si sente di fare? No, allora, c'è un'idea dietro la scelta e quest'idea deve essere da un lato rispettata perché è di un autore certo. Che vuole trasmettere qualcosa, quindi noi diciamo siamo da ponte con la mia visione e rispetto alla sua ovviamente, però il mio ruolo è fare eco a quello che è uno spettacolo, un messaggio, no? E quindi questo cerco di trasmetterlo. Ogni personaggio ha un suo ruolo, ha un suo motivo per cui è lì. Come dico sempre a loro, c'è sempre un'intenzione per cui si dice qualcosa. Nessuno dei personaggi, come nella vita, si apre bocca a caso. Almeno non si dovrebbe. Può capitare. Però, se ascoltate le registrazioni qui... All'interno di questa intenzione, però, il modo col quale la possono rendere, col quale voglio che sia libertà della sensibilità loro, che mi portano la proposta. Ecco, quindi in quello hanno carta bianca. Dentro a quell'intenzione lì, dentro a quell'idea lì, si muovono liberamente. Che cosa vorreste portare in scena, se avete, ma non necessariamente un titolo, o ma un genere, personaggio... o un personaggio che vi piacerebbe fare e che questo regista non vi vuol far fare in nessun modo? No, non lo so, qualcosa di particolare. Ma De Filippo è stata una sfida interessante, immagino. Quindi personalmente penso che avendo fatto anche cose un attimino più comiche, mi piacerebbe portare avanti una commedia complessa come questa. Ecco, una cosa su questa riga qui. Sì, anch'io. Sì. Cioè, penso che a questo punto, cioè, quest'anno è stato veramente un salto di qualità rispetto all'anno scorso, anche a livello di preparazione del personaggio. E quindi secondo me non avrebbe troppo senso tornare indietro, tra virgolette, comunque fare una commedia un po' leggera. Così. Leggera. Ecco, quindi anch'io vorrei continuare in una cosa del genere. Francesca, io voglio smettere. Sto scherzando. A me va bene tutto. Va bene. No, ma gli va bene, Alessandro. No, io sono d'accordo con quello che ha detto Annalisa e Paolo. Comunque, una commedia importante come Edoardo e Filippo richiede che il prossimo anno ci debba essere una crescita. Via. Un Anton Chekhov, qualcosa. Fabio, dici qualcosa perché ora mi loro, sembra che abbiano. Loro, cioè, non vorrei che fosse che passasse il messaggio che piano piano si arriva non si sa dove a rivederci, cioè, Edoardo o Sam, ecco, Edoardo arrivederci, tanto ormai è roba fatta. No, ma, ecco, non è scusa, così pare che a Rigutino stiano preparando un quadrante, lo vorranno chiamare Broadway. Per Alessandro poi è un cerchio, se parte da Cristo si deve tornare lì, capito? Ecco, ma in realtà a livello di crescita vuol dire a tutto tondo non l'importanza o quanto è impegnato un testo, ma la preparazione, quanto scavi dentro il personaggio, quanto ti ci metti in gioco di te stesso, questa è la crescita, ecco, non tornare indietro da lì. Se poi la commedia fa più ridere di quest'anno va benissimo, però certo, si deve sentire lo spessore che è diverso, se no non siamo cresciuti. Io ho capito che voglio fare il regista. No, io invece ho capito che vorrei fare l'attore sempre e concordo con quello che dice Fabio, effettivamente non è detto che l'importanza di chi metti in scena cioè voglia dire avere più o meno impegno o più o meno crescite per quello che stai facendo. Finisci te, di qualcosa a te, Marcello, signori, ti prego. Io direi di darci appuntamento alla prossima stagione, come si dice. Siamo molto curiosi di vedere quello che non abbiamo insistito per farci dire. No, rimane assolutamente. E di come gli attori, i nostri amici, sapranno interpretare quella che sarà la nuova stagione della compagnia del cielo. E noi rimaniamo, quindi rinnoviamo, anzi, vi facciamo una promessa: non appena avrete il nuovo spettacolo, le prime date, ce lo farete sapere, vi rinviteremo e vi seguiremo passo passo, umilmente. Ora, grazie. Marcello, grazie. Non so se ce la farà. Passo passo con le mie difficoltà. Quindi salutiamo Francesca, poi continuo io a dire i nomi, fai tu. Saluta te, dai, saluta te. Ma tra l'altro, guarda, mi pregio perché sicuramente riascolterà, se non la sta ascoltando in diretta, la riascolterà in streaming, in registrata la trasmissione. Voglio salutare Andrea, sì, che è impegnato stasera in una cosa molto importante. Salutiamo Andrea. Salutiamo Francesca. Ciao Annalisa. Francesca, grazie. Ciao Annalisa. Paolo. Buonasera a tutti. Ciao Fabio. Grazie mille a tutti. Alessandro. Grazie, e vogliamo dire anche i nomi di chi stasera non è potuto venire? Assolutamente. Il regista, vai. Allora, salutiamo Nicola. Ciao Nico. Salutiamo Giacomo. Così. Ciao Giacomo. Giulia. Ciao Giulia. Letizia. Ciao Leti. E Matteo. Ciao Matteo. Ci siamo scurati di nessuno? No. No. Siamo posto così. No. Allora, noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Gli appuntamenti sono vari. Domani l'altro, la programmazione di Radio F è varia ed eccezionale. E poi trovate tutto su Facebook. Sì. Riuscirete a capire bene a che ore, chi, come, perché. Ma voi fate bene. Alle 6 alzate, mettete su Radio 89.2 e non staccate più. E il fine settimana va in scioltezza. Noi invece ci risentiamo venerdì prossimo. Potete vederci un po', sapete come, con i nostri social. Se no, ci venite a cercare. Ma speriamo non ci trovino. Io direi che possiamo andare con la sigla. Nella sigla salutiamo tutti gli altri. Bene. Okay. Ciao Marcello. Ciao Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica Simone. Une. Alla fotografia Paolo. Aulo. Alle riprese Valeria. Eria. ci vediamo, anzi ci sentiamo venerdì prossimo. Ossimo, ossimo, ossimo.